Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Questa settimana registriamo di martedì pomeriggio in seguito alla notte di pausa per la finalissima del torneo NCAA. Difficile quindi raccontare classifiche e dati che possono essere d'attualità nel finale di settimana quando questa trasmissione andrà in onda. Quindi punteremo maggiormente su analisi generiche per quanto possibile. Per iniziare andiamo a completare le nostre previsioni riguardanti gli award stagionali, considerando ciò di cui abbiamo già parlato, e cioè che in una ipotetica corsa a due per l'MVP, noi di NBA Week andiamo con James Harden piuttosto che con LeBron James, seppur il mio personale cuore sia con il 23 di Cleveland, e dal livello di rookie dell'anno con Donovan Mitchell piuttosto che con Ben Simmons di Philadelphia. Partiamo adesso dall'allenatore dell'anno. Allora, c'è Mike D'Antoni che chiuderà a Houston con il miglior record di franchigia di sempre, il primo record della Lega ed il ruolo di attuale favorita per la finale ad Ovest. Lo farà dopo aver trasformato il già detto James Harden in MVP probabile, dopo aver amalgamato un giocatore come Chris Paul dentro ad una squadra rimasta della stessa struttura di gioco dello scorso anno, pur rivoluzionandosi nel contorno, completandosi passo dopo passo, mese dopo mese. Però, per la solita regola del "lo ha già vinto", dobbiamo puntare su qualcun altro, almeno così si dice. Ed allora la sfida è a due anche in questa categoria. Io metto al secondo posto Dwayne Casey di Toronto, che molto probabilmente chiuderà clamorosamente come prima squadra d'est e che ha trovato una struttura corale impressionante a tratti, seppur con l'esaltazione e la crescita del proprio go-to guy, cioè DeMar DeRozan. Il mio allenatore dell'anno è invece Brad Stevens di Boston, che ha proseguito nel lavoro identitario già avviato lo scorso anno con una squadra totalmente rivoluzionata per la verità, quanto falcidiata dagli infortuni e dagli imprevisti. Si tratta di un allenatore che ha dato fiducia a giovanissimi e fatto crescere giocatori divenuti fondamentali come Jalen Brown e Terry Rozier, capace di gestire ed arrangiare una rotazione che ha fatto dei Celtics l'attuale seconda miglior squadra della Eastern Conference, seppur senza Gordon Hayward e priva nelle ultime settimane anche di Kyrie Irving. Forse non sarà neanche questo l'anno buono per i Celtics, ma con una squadra al completo, dovesse esserlo il prossimo in materia d'arrivo in finale, questa sarà stata indubbiamente la stagione di consolidamento nell'elite della Lega per Boston. E quindi io voto colui che ha il merito di tutto ciò, cioè Brad Stevens, per me, coach dell'anno. Capitolo giocatore più migliorato. Si tratta di un award piuttosto facile da prevedere, visto che Victor Oladipo di Indiana è passato da mediocre comprimario in quel di Oklahoma City ad assoluta stella dei Pacers, con un discreto successo sia in materia di risultati che di gioco di squadra. Ha raddoppiato le sue cifre, definito il suo gioco elevandolo al ruolo di giocatore franchigia, funzionando da faro per un organico giovane ed ambizioso. Insomma, il giocatore più migliorato dell'anno non può che essere lui, però ci tengo a menzionare altri due giocatori per me assolutamente clamorosi nel loro progresso in questa stagione. Il primo è il già citato Jalen Brown di Boston, divenuto un po' per necessità e molto per merito il sostituto immediato di Gordon Hayward nello scacchiere di Stevens, con risposte più che all'altezza sia offensivamente che difensivamente. Il secondo invece è Clint Capela, il centro di Houston divenuto in un anno uno dei più efficaci rappresentanti del ruolo nella Lega, crescendo in entrambi i lati del campo, lavorando in coordinazione e soluzioni offensive e soprattutto imparando a beneficiare al meglio degli scarichi di James Harden o dell'intelligenza cestistica di Chris Paul. Potrebbe essere la chiave di un ipotetico successo di Houston. Per il sesto uomo dell'anno la sfida appare nuovamente da dividersi tra Eric Gordon e Lou Williams come lo scorso anno, con Jordan Clarkson, almeno per medie, seduto sul terzo gradino del podio. Fosse così, io lo darei a Sweet Lou, che ha giocato una prima parte di stagione, o meglio fino alla pausa per la partita delle stelle, assolutamente clamorosa. Considerando le statistiche, difficile uscire da questi tre, ma da menzionare in modo significativo c'è l'immortale Dwayne Wade pur nel passaggio da Cleveland a Miami, il sorpresone Domantas Sabonis, Kelly Oubre Jr. di Washington e soprattutto Will Barton di Denver. Anzi, a volerlo considerare in corsa, la vera alternativa al terzetto suddetto sarebbe proprio lui, uscito tra i primi 5 35 volte su 76 gare dei suoi Nuggets, 76 al momento in cui stiamo ovviamente registrando, con una media che si attesta attorno ai 15 punti per gara. Quindi, titolo che io darei a Lou Williams, ma assolutamente Will Barton outsider potenziale. Concludiamo poi con il difensore dell'anno, altro titolo di non facilissima previsione. Avevamo parlato a metà stagione dei soliti due, Draymond Green e Kevin Durant. Concludiamo invece menzionando Joel Embiid, che a livello di rim protector è risultato più volte decisivo, soprattutto come presenza e capacità di favorire l'errore avversario sotto canestro. Da valutare all'interno di un'ipotetica classifica anche Paul George di Oklahoma City, che chiuderà comunque come miglior ladro di palloni della Lega in una squadra dove difensivamente si pecca spesso. Ci sarebbe da considerare anche le doti fisiche ed inevitabilmente decisive se applicate in metà campo difensiva di Giannis Antetokounmpo e la presenza sotto canestro di Andre Drummond di Detroit, che sarà probabilmente il miglior rimbalzista della stagione NBA. Da non dimenticare, potenzialmente tra le posizioni più alte di un ipotetico top ranking, Rudy Gobert di Utah, che è come sappiamo benissimo un clamoroso stoppatore, ed Anthony Davis di New Orleans, sia per presenza che per statistica, e oltretutto perché, malgrado la necessità di dover ovviare all'assenza del collega Cousins nel frontcourt, assolutamente non ha diminuito il livello delle sue prestazioni, né nella parte offensiva del gioco, né soprattutto in quella difensiva, dove risulta ancora abbastanza sottovalutato. La questione per decidere chi sia il migliore tra tutti questi è particolarmente complessa, perché a livello generale effettivamente proprio Anthony Davis a mio avviso meriterebbe un premio, ma a livello di impatto statistico Rudy Gobert è potenzialmente da titolo di miglior difensore dell'anno, mentre a livello di impressione personale e di cuore io voterei il nostro Joel Embiid di Philadelphia. Quindi vi dico la mia a livello proprio di pura impressione di osservatore per partita, andando proprio con il centro dei Philadelphia 76ers per la sua efficacia sotto canestro come rim protector, ma il titolo comunque potrebbe vincerlo tranquillamente uno degli altri due. Come già detto, stiamo registrando di martedì pomeriggio con il serio rischio di perdere di attualità nei giorni della messa in onda. Pertanto proviamo a farci tre domande analitiche semplici su questo finale di stagione. La prima domanda è, molto scontatamente, chi è che parte favorito ad Ovest nei prossimi playoff? È una domanda di strettissima attualità considerando l'assenza in avvio proprio di post-season di Stephen Curry per Golden State e i dubbi sul suo stato nell'eventuale proseguo. Houston è macchina schiaccia sassi, vive una stagione magica con una consapevolezza nei propri mezzi cresciuta all'acquisire dei risultati. Ho sempre detto che tra le due, a prescindere dalle percezioni momentanee, i Warriors rappresentavano comunque la favoritissima in quanto miglior squadra della Lega se al completo. Allo stato di cose sono costretto a cambiare punto di vista. La sensazione è che, anche con il roster al 100%, entrambe le squadre potrebbero giocarsela al photo finish e che nelle condizioni attuali la squadra più accreditata sia proprio quella di Mike D'Antoni. Anzi, occhio a come si mettono le cose ad Ovest per Golden State, perché nello stato di difficoltà attuale potrebbe anche rischiare qualche difficoltà più del previsto già dal primo turno. Infatti io, ad esempio, fossi loro non sarei tanto tranquillo trovandomi di fronte ad esempio gli Oklahoma City Thunders, ma anche i New Orleans Pelicans e anche gli Utah Jazz di questa fase finale di stagione. Seconda domanda: chi è il favorito per raggiungere la finale nella Eastern Conference? Che è una domanda inevitabile a livello proprio di par condicio. Esisterebbero ancora flebili speranze per Boston per riacciuffare Toronto, che in una ipotetica finale di conference potrebbe beneficiare del vantaggio campo conseguenziale al primo posto che sembra essere sul punto di conquistare. A guardare le classifiche, le prime due appaiono accreditatissime per giocarsi la finale di conference, Ma occhio, perché Toronto è, come ogni anno, tutta da dimostrare quando conta. E Boston ha comunque l'incognita Kyrie Irving, che alla lunga potrebbe anche risultare decisiva. Tra le due, quindi, perché non pensare ai soliti Cleveland Cavaliers? LeBron James sta giocando forse la sua miglior pallacanestro di sempre in questo finale di stagione, con una integrità fisica al solito mostruosa e risultati statistici di tutto rispetto. I favoriti ad est, quindi, in questo momento, per me, sono di nuovo i Cavs, proprio perché hanno lui, capace di giocare una regular season clamorosa, salendo di livello giusto in tempo per il piatto forte stagionale. Ma occhio anche a Philadelphia, soprattutto se l'infortunio occorso nel finale della scorsa settimana a Joel Embiid si risolvesse senza contraccolpi, e soprattutto se Markelli Fultz decidesse di confermare al mondo che non è così un bust come è stato additato per mesi. A forza di upset, volendo, i Sixer al completo in finale di conference potrebbero anche ritrovarci, se poi da lì, boh, tutto può accadere da un certo punto di vista. Terza ed ultimo domandone di questa puntata: chi è la squadra delusione ed il giocatore delusione della stagione? Allora, per quanto riguarda la squadra, sarebbe stato facile fino a qualche giorno fa dire San Antonio Spurs, ma i ragazzi di Popovic hanno dovuto far fronte ad una stagione senza il proprio leader conclamato Kawhi Leonard, diciamolo sempre, ma sono in nettissima ripresa a livello di risultati nell'ultimissimo periodo. Quindi, effettivamente, squadra delusione neanche più di tanto, considerando quello che c'è a disposizione e considerando le difficoltà avvenute cammino andando per Popovic e i suoi ragazzi. Restando ad ovest, perché ad est si partiva talmente con le aspettative basse che tutte, a parte Cleveland, comunque in ripresa in questa fase, hanno stupito a loro modo, così su due piedi mi verrebbe da pensare a Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder. I primi rischiano seriamente di restar fuori dalla corsa playoff, come del resto i Pelicans, che però hanno l'attenuante della perdita di Cousins, ed hanno nel loro roster un Wiggins, un Andrew Wiggins, dal quale mi sarei aspettato di più a livello di salto di qualità. L'ex prima scelta assoluta si è assestato, Butler permettendo come terzo violino di squadra, con limiti difensivi o di voglia piuttosto visibili, ma la mia personalissima squadra delusione, che ha al suo interno anche l'aspettativa più disattesa della stagione a livello di giocatore, è Oklahoma City. I Thunders non sono riusciti a trovare una continuità vera, se non al momento dell'infortunio di Robertson, che li ha lasciati privi di guida difensiva in campo. L'arrivo di Corey Brewer, per quanto importante sia stato, ha portato altro ad una squadra che, malgrado gli innesti roboanti del mercato estivo, si trova sempre più dipendente da un Russell Westbrook ad un passo ancora dalla seconda stagione con quasi una tripla doppia di media, ma comunque troppo solo nell'isola in certe fasi. Il calendario complesso in conclusione di stagione, per la verità abbastanza disonorato ad oggi, rischia di regalar loro una pericolosissima sesta piazza ad ovest, o addirittura, peggio, una settima, che renderebbe complesso anche il passaggio potenziale del primo turno. In tutto questo, un Paul George che sembrava felicissimo e deciso a restare a metà stagione sembra quasi pensare ad un ritorno a casa nella sua Los Angeles a campionato concluso, con una involuzione di gioco piuttosto netta nel post All-Stars Game. La squadra continua a dimostrare inoltre limiti difensivi notevoli ed un sistema di gioco piuttosto problematico, che fortunatamente ha scoperto in Steven Adams un totem continuo ed in crescita costante negli ultimi anni. Soprattutto importante per garantire quei rimbalzi offensivi che inevitabilmente salvano la vita ad una squadra troppo dipendente dagli isolamenti, dei quali escono spesso tiri affrettati destinati a stamparsi sul ferro. La totale incapacità dei Thunders di chiudere certe gare, o quantomeno la gran parte delle partite che giocano, fallendo spesso i possessi decisivi dopo essere stati ripresi, appare clamorosa se considerata all'interno di un roster con quei Big Three che dovevano proprio generare l'effetto opposto, e del gruppetto la delusione assoluta è stata proprio Carmelo Anthony. Che fosse destinato ad essere il terzo violino di squadra era prevedibile considerando anche l'età, ma che potesse produrre una serie tanto svogliata quanto sprecisa di prestazioni, un po' meno. chiuderà la sua stagione con le peggiori medie in carriera, e quella che più colpisce sta proprio nelle percentuali al tiro, dove anche il suo tirino dalla media era un marchio di fabbrica per potenziale infallibilità nelle annate newyorkesi, latita spesso soprattutto nei finali. È un giocatore che sembra aver toccato veramente un punto di non ritorno, almeno che non si risvegli nel momento decisivo, stupendo il mondo intero e il sottoscritto in post season. È quello che effettivamente da Oklahoma City un po' tutti si aspettano, o quantomeno sperano, anche se prima di tutto c'è da concludere dignitosamente una stagione regolare che potrebbe regalare un posizionamento basso nella classifica di conference, con l'inevitabile destino di affrontare una delle prime due corazzate del lotto. Per una squadra con Westbrook, George e Anthony tutto sarebbe possibile, è vero, ma l'utilizzo obbligatorio di un condizionale mai tanto sottolineato in una frase simile la dice lunga su quanto la loro stagione sia stata ben al di sotto delle aspettative. Benissimo, rapidamente giungiamo a conclusione anche di questa puntata del nostro podcast. L'appuntamento è rinnovato al solito per la prossima settimana, e se volete potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook che si chiama NBA Week. Mentre, come sempre, se volete ascoltarci potete farlo tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo tra 7 giorni con NBA Week. Let's go!